Fuori Sassari a lavorare, perché non è possibile. proprio merdaccia, merdaccia qua. Allora, adesso te ne dico una. Stanno cercando a Olbia, da Olbia a Corsica, il tragitto Olbia Corsica, sempre, sempre guardia giurata, fa il tragitto nelle navi Olbia Corsica, però non so quando sia a casa. Yes. Io c'ho un bambino piccolino, c'ho cazzo che c'ha bisogno di una mano. E se, non me ne, se fosse per me mi ha sbattuto le balle, veramente, perché non è possibile, no? Lì già riprendi i soldi, lì sei spesato di tutto, mangiare tutto, mangi lì nella nave e tutto quanto, c'è la tua cucetta e tutto quanto. Allora, almeno prendi 2-3 mila euro. Ehi, se ti bastano, anche di più, perché se fai quelle che trasferte lì, già sei magari dove, non ti preoccupare. Arrivo a un certo punto, cosa devo fare? Dimmelo tu. Io adesso, se c'ho un figlio piccolo così, sacrifici ci vogliono, perché bisogna fare sacrifici. Lavoro devi andare dove lo trovi, a stare così ancora peggio. Io non so veramente che fare. Se l'abbiamo saputo, se avessi trovato lavoro così e prendere tanti soldi così, io sarei andato. Io te l'ho detto, io sto andando a lavorare perché non c'è altro. Sono qua perché non c'è altro. Adesso mi devono dare sempre risposta, sempre come guardia armata, e vediamo un po', perché io ho il decreto e tutto quanto. Adesso vediamo, settimana prossima mi devono far sapere, vediamo un po', e qua vado via, qui lo lascio, capito? Cosa vuoi dire, cioè, mi avrebbero dato una cosa del genere, guarda, ci sarei andato, avrei fatto un sacrificio, però se vuoi far stare bene la mia famiglia, cosa, cioè, l'avrei fatto. Cazzo, 5-6 mila euro sono un meme. Così, tanto, lo so, è dura, è dura. Stare qua, te l'ho detto, non trovo una mazza. E poi se trovi, ti danno una mesilia, lavori gratis, perché ti danno proprio una mesilia. Il lavoro c'è, cioè, te l'ho detto, da Olbia a Corsica, fa sempre quel tragitto lì, perché sei sulla nave. Ma arrivato a un certo punto non mi sbatto un cazzo, cioè, se devo far stare bene la famiglia e farli vivere bene, faccio sacrificio. Ci vuole il sacrificio, se non fai nulla, non farai mai niente, se stai qui non farai mai niente, con questa gente qua, se non cerchi non farai mai nulla. Sì, arrivato a un certo punto lo faccio. Se mi ti chiudi in chiave, io lo faccio. E poi stai bene. Tua moglie deve avere pazienza, perché sei fuori, lo so. Sei fuori lì, sei fuori tutta la settimana, se non di più pure. Però devi guardare quello che ti danno, poi stai bene, sì. Lo fai per dire un anno, due, quello che è. E da voi puoi cercare qualsiasi, se si sblocca qualcosa. Magari mi faccio qualcosa conto mio, dopo che... Beh, qualcosa ti consumi sul lavoro, ti metti qualcosa a parte, tanto lì non spendi niente da mangiare, né. Lì si invita a luggio. Tanto lì ti danno la tua cucetta, mangi lì nel ristorante, dove è tutto. Tu ti devi fare i tuoi servizi, le tue ore e basta. Boh, quello che prendi è pulito, non c'hai spese. Io lo faccio pure, arrivato a questo punto lo faccio. Devo avere l'input dove andare, per cosa, capito? Devi chiedere, tu devi chiedere in giro. A me me l'ha detto un amico mio, adesso non mi ricordo che azienda era, basta guardare, guardie, tra Olbia e tossica, o guardi giurato su una nave e poi ti danno tutte le cose loro. Sì, io mi informo, c'è anche mio cognato che lavora lì in quella zona, mi informo, vaffanculo, faccio un sacrificio, starò adesso un mese fuori, due tre mesi fuori, ma cazzo, li mando i soldi e stanno bene loro, mi mando i soldi, li mando i soldi a casa e se stanno bene loro sto bene anche io. Non è possibile vivere come disgraziati. Li fa il bonifico, ogni mese per essere questo, ma che pagano ogni 20, ogni mese, ogni fine del mese, ogni 15, adesso non lo so. Però sordinà, a chi sordinà? Cazzo c'è la soddisfazione, ho capito che sei fuori casa, però c'è la soddisfazione di prendere i soldi ogni mese. Sì, non me ne fotti nulla, non mi interessa, non me ne sbatte niente, no. Zero, riporto zero qua. Io quando ero su a Milano mi facevo lì e lì, facevo guardia giurata la notte e di giorno andavo con mio socio in cantiere a lavorare per avere qualcosa, perché i miei figli erano piccolini e quindi dovevo fare così. Ma con 2.000 ti portavi a casa? 2.000? Di più di 2.000. Prendevo 1.000, allora, 1.800 euro prendevo come guardia giurata. Poi mi facevo i lavori con mio suocero in cantiere, arrivavo con i 3.500-4.000 euro massimo. A voi che si arriva? Si arriva, ma lì pagavi l'affitto pagavi 800 euro di affitto. Non è che paghi cazzo di euro, ma come ti paghi tu? Già lo so già. Lì pagavo affitto, c'avevo due macchine, c'avevo io e mia moglie una macchina, assicurazione, mollo, mangiare al bambino, andare a scuola, mandarli a scuola e tutto qua, vestirvi, soldi là, 4.000 euro, non erano nulla, si può dire. Non lo so già. I soldi non me li prendi, vanno via subito, specialmente quando c'è i figli, ancora peggio. Cazzo, dove c'è sempre il travaglio di maete? La vita è quella, tanto cosa devi fare? Anda fuori, cazzo, vai a fare qualche lapina, fa un bel con, vai una bella lapina sui portavalori, e ci vuole il coglione a fare lapine. Una garraffina. Ma per dire, no? Allora vai a fare qualche colpo, basta che sei sicuro che ci siano soldi, allora un altro discorso, hai finito di lavorare, allora tenete sul conto, ma no, in Italia li metti fuori, sul conto fuori. Se avessi avuto un lavoro buono da farmi un'estate anche tutta bella piena, da guadagnare un sacco di soldi, sarei andato. Non si può vivere come gli animali, veramente. E se no ti devi fare la stagione, ma la stagione cazzo è a maggio. Lo so. Lì dove stavo facendo io servizio al campeggio quest'estate, stavano cercando lì come aiutante cuoco, aiutante di tavolo, i camerieri, queste cose qua le cercano ogni anno. Pagando, ma adesso voglio sentire un po' mia sorella, mio cognato, glielo dico che non si può vivere così. Non posso vivere così come gli animali. No, non è vita, non è vita, no, perché cazzo si è sempre cazzo scoglionato. Ogni giorno che passa si è scoglionato, perché non c'hai entrate, capito? Non c'hai niente, se vuoi qualcosa non te la puoi permettere perché non stai lavorando. Tuo figlio lo stesso, se devi prendere qualcosa non te la puoi permettere perché no, è tutto insieme. Sì, no, non è vita, no, no, non si può campare così. Adesso vediamo. A me è che stare imbarcato un bel po' di mesi, no, me ne ha fatti nulla, dico la verità. L'importante è che stiano bene loro. Poi vabbè, i soldi li puoi mettere, o li vai a un codo, o li metti dentro la carta. Prende un'altra carta, gli ribuoni dritto e a posto. Lo so, rimesso, rifà la carta, rifà il modifico di mese. Quando prendi i soldi, gli dai il nome, il numero della carta, quando ti fa il modifico va direttamente a lì. Che non tutto, almeno una parte. Una buona parte, almeno faccio stare bene la famiglia, perché non è possibile vivere così, non è possibile. Lo so, è brutto, è cosa di vita, la vita è quella lì. Ma non andava così, no? Aspetta, mi sento un attimo, Anto. E Antonio, è così, cosa devi fare? Mi domani mattina ci devo uscire alle 5 e mezza io, per esempio, devo entrare alle 5 e mezza a lavorare, cosa cazzo devo fare? Cosa devi fare? No, ma che cosa è a rumese? Stamattina lo stesso, sono entrato alle 5 e mezza e ho smontato alle 2 e mezza. Domani lo stesso, 5 e mezza, 2 e mezza. Poi martedì faccio dalle 2 e mezza alle 10 e mezza di notte. Cosa devo fare? Non andare a travagliare. Poi forse non andare a travagliare, cosa fai? Mi andare a far forza, si devi pagare le cose, mola, assicurazioni, affitto, la luce, cazzo non andare a travagliare. Lo so. Ma vediamo cosa c'è, ma vediamo come ti si comporta Nichissi, puro, insomma come fai, io chiedo, se per stare più bene, vedo di fare qualcosa, che non è possibile stare così, chiedo. Mi dispiace, ma non è dignità questa, non è stare bene. Sì, ma non sei solo tu così, cazzo qui non è niente qui, giù di te, senza casa buco, senza du. Lo so, cazzo dopo gli due di non c'è più un cazzo, cioè no, vai fa la spesa, non vuoi manco un euro, non fai. Cazzo, vivo. Cioè vai a fare la spesa, cazzo, cioè, adesso, cazzo ti concentro, che mi hanno dato una tranche, mi hanno pagato una tranche, ci sono andati così, ci sono andati, cioè, comprando roba a destra e a sinistra, pagando quello e quell'altro, una roba da matti. E se c'è un bel debiti da pagare indietro, è normale che, cazzo, come li vedi, se ne vanno subito. Cazzo, mi sono potuto permettere a malapena, cazzo, di comprarmi un rosmetro. A malapena, guarda. Ma quello l'avrei lasciato indietro, quelle cose lì. Cazzo, io avrei pensato a mangiare, a dare a mio figlio quello che gli manca. Cosa cazzo il rosmetro? Vorrei devi lasciarle stare queste cose. Quando ce li hai te le compri, ma quando non ne hai, cosa cazzo devi fare? Appigliatori di radio, ma lascia perdere, non ne vale la pena. No, il problema è che purtroppo, vabbè, già non c'è una gazzata, ho pagato poco, non è che. Il problema è che io sapevo di prendere, dico come la storia, sapevo di prendere quei soldi, mi sarebbero bastati tutto il mese, non me ne era dura mi dai. Oramai li avevo già prenotato e me l'ho dovuto prendere per forza. No, ma non ne valeva la pena spendere soldi per queste cose qua, assolutamente. Ecco dove è stato il problema, se non avessi comparato, non ti preoccupare. No, però oramai gli avevo già prenotato, cosa facevo? Non è bello neanche pigliare il burro di massone, perché cioè chi di cazzo mi ha dato la metà e ci sono ancora soldi che mi devono dare e ancora non si fa tesori. Ma l'uomo dove l'ha preso? Da negozio o da uno? No, me l'ha venduto Luca. Ma se non vedrai cazzo spendi soldi, boh. Sì, ma non volevo, ho capito. Non è che mi è venuto tanto, però mi serviva, me l'ho preso, cioè per dire, un vizio solo mi sono potuto permettere, in tanti mesi dico un vizio solo, ma siamo bufunendi o cosa? Adesso ti devi mettere in testa di cercare un lavoro come ti si devi, lavorare e sistemare la famiglia, lascia perdere perché cazzate di spendere soldi per queste cose qua, poi quando ci avrai soldi è un altro discorso. Il problema è che io devo prendere tutti i soldi e invece non ho preso tutti i soldi. Cazzo, sono crescendo di gabbo, guarda, credimi. Lo so, mamma tu. Lo so, che brutto. Adesso speriamo che me li diano. Andateli già te le danno, se ti aspettano te le danno. Io ho lavorato, mi sono rifacciato un guro. E allora di rilascio, ma forse di rilascio. Adesso vediamo se mi danno l'info, se riesco a trovare questa cosa e me ne posso anche marcare, non è un problema. A me non me ne frega un cazzo, ti dico la verità. Aspetta un attimo, mi sento un attimo. E adesso mi alzo dal letto, va. Stai usando il portatile. Come? Stai usando il portatile. Ehi, è il portatile. Adesso se riesco a procurarmi uno dove vado a lavorare, se prende la vita a concorreare. No, portatile no, deve avere l'antenna sulla capota. E vabbè, una base magnetica collegata alla portatile. Lo attacco lì dove c'è il gabbiotto, dove c'è l'ufficio io. La corrente a me? No, già lo collego con la CDC di una macchina. La corrente la devo mettere adesso, fra un po' la metto. E quindi posso metterlo sia televisore e tutto quanto. E allora già. Una piccola magnetica. Esatto? Una magnetica Tibone. Ce l'avevo, gliel'ho ritornata, me l'avevano prestata a Franco. E gliel'ho ritornata che le serviva. Adesso in caso è già la procuro. Poi ve la giù io. Allora sarà, vediamo un po'. L'attacco va lì alla lamiera dell'ufficio. E vedo un po' se piglia da tronco reale. Qua. Boh. Se prendere, perché è tutto aperto lì, Sì, che già prendo. E quello che abbiamo l'antenna sul tetto già. A Puglia. A sentire già sentirai. Puglia. Esce che mi ribeso qua. Ma mi rialzo. Sono guccato da ancora. Così anche sto preparando il sugo per domani, che mi porto un po' di pasta domani. Che me ne alzo? Vabbè dai, già lo tengo acceso che sto facendo cose a qualcuno. Magari prendo una stazione grande. Via. Stanotte fai lì, stanotte. Vai, fatta da me. Dopo un mese, più di un mese non ho la mangio. Però me la porto in casa io. Oh yeah, su che andiamo! Dimmi, ho capito. Come? detto, quando mi cocco per un portatile, quando mi cocchi, quello, lo baracchino vanno là, cioè, l'anno 48 è, esce a vedere cosa mi ha raggiunto. Allora. No! Caldo. No, devi andare in piedi. La per stazionare, ma così muove. Scappa. Aspetta, ma non è che c'è il sole caldo, mi sta scaldando. E beh, a tu. Dimmi, Emanuele, che è un attimino in cucina. Esatto. Per un attimino in cucina, dimmi. Oh, stavo dicendo, che darà la giorno quando si da, da camera alla stazione fisica, è tutta una cagosa. E beh, magari non lo so, se vado a segnare è sempre lo stesso, però e vabbè, per il momento c'è quello, cosa devo fare con l'MB più 4 e la 48 ti dico io, non ti dico chissà cosa, ci può stare, non lo sto usando perché ha problemi. Ma l'MB più 4 sto usando adesso? E io l'MB più 4 con la 48. Superstar l'ho portato a farlo controllare perché ha problemi. L'MB più 4 è quello che stava usando Luca, quello di Luca era. E io, il detaggio. Esce bene quello lì. Va pagato. Dai. Esce benissimo, esce, non bene, benissimo proprio. Ah, esce bene quello lì. L'MB più 4 mi ricordo lo usavo, lo usavamo quando avevo il 548 per salire della Intec, allora come si dice? Sembra il bomba a voce, bomba. Poi avevano fatto l'MB più 5, ma era una mezzo cagata, ISO di microfono. Quando riusciva bene era quello lì, l'MB più 4 o il TAR più 3, quello nero. Però lo so già. Problema con una cosa, voglio vedere che antipatti misura, voglio proprio vedere, allora per me cadere abbiamo la bestiolina, devo scaldare, voglio capire quanti watt esce con un strumento professionale, la ginocchia da basso, lasciamo vedere. Ecco qua. Oh, esce bene, una bella modulazione di lusso. A quanto ce l'hai? A metà? Sì, più o meno sì. Va benissimo. Va benissimo. No, se mi fa di aereo, vediamo un po'. Ah, non ne vale la pena, Ollo, Antu. Non ne vale la pena accendere lineare. Ci cioè, se sembra due bassi. No, perché voglio capire quanto esce, quanta potenza dà, perché c'è uno strumento come si deve, capito? Quale sto usando? Quello grigio, quello a transistor sto usando? No, il ZG BV131 voglio provare, beh, quanti watt mi dà, però adesso prima deve scaldare, poi faccio il passaggio. Allora, il BV131 ti dà 80 watt, non te ne dà 100 effettivi, 80 te ne dà, 80-85, non te ne dà 100 watt. Ma vedi Mugantue? Il BV131 lui, non c'è già un bat, lui dice, per carità. Ma non mi casi che è freddo, perché adesso non lo puoi accendere perché è freddo, deve essere caldo per poter misurare le cose giuste, capito? Sì, ti dà una trentina di watt, io, Antu, non te ne dà 100 watt. Guarda, preferisco più il 747, quello a transistor, quello veicolare, quello lì funge di più di quello. Ah, ma proviamo. Aspetta che provo a accomodarlo, va. Yeah. vicini, perché è normale che va in saturazione, siamo troppo vicini. Ma perché saturazione sei? Adesso no, però quando invece a scaldare di più, un po' di saturazione, perché pompa di più. Kappa. Guarda, il signorino pompa, eh! Quanto ti sta dando la rosmata? È una novantina mi sta dando. Non te ne dà 100 comunque. Puzzi, non su cazzo, cioè. Perché la mia maniglia è brutto, eh! Vediamo in coda in FM. Non è più in FM. Più scalda e ti sta spingendo. Ma la laterale te ne da 200. Puzzi non so sia, ragazzi. Cattivo. Aio, prendi casino, non sei di? Ma... sono alto. Ebbene, Natali. Ebbene. Kappa. Dimmi, stavo provando, questa gita stavo provando, a vedere cosa ne pensa. Io ci avevo di accogliere appena. Puzzinoso di vegane. Avanti, Natali. Eoia. No, me l'ho portata. Mi me ne sono alzata adesso, non sto bene. No. Ma... Kappa, cosa va Natali? E influenza deve essere, sono accusi. Kappa, perché vuoi che ti dica? Quando però dico anche accorda bene stazionale, cioè, funziona benissimo. Mi dispiace Natali. Vabbè, cosa vuoi sia, tanto più di chi su di me su te. Sono io, siccome lavoravo a e beh, Emanuele. Beh, Natalia, non me la si opposta, ci vuole. Non me la si opposta, se no andiamo lì dove c'è il caldo, il sole, con le chiappe al vento. Avvero, no, se non è stato ben di preco, riparato in Chiria, la Grucca, dove lavori tu, che lì c'è l'asino, almeno mi sarebbe passato tutto. Cosa cazzo di davanti? Ah, cosa andiamo a Cuba, con le chiappe colorate, via al vento, cazzo, vedete, ti passa tutto, tutta la malattia ti passa. E dove si mangia si tuba? Cazzo tu, cazzo mi sarà la prima e basta. Che paese strano, beh. Kappa che mi funziona meglio qui, beh. Ora. Tanto che l'ha fatto. Inviate pompare su cosa. Per non guardarsi la valvola lo facciamo andare un po', dai. Sei la ora rimane che tu prendi il casino, Emanuele. E chi? Chi ti indigge no? Che entra in occhio, chi ti divora? E chi è? No. Quelli di fuori, la propagazione. Ah, beh, anzi, sanno che c'è ancora la propagazione. Aggiunto, attento, burrotone. Io quando ero su a Milano, quando lavoravo su a Milano, ho sentito a Luca ci abbiamo fatto un bel discorso con Spalviero, ci abbiamo fatto una bella modulata e io ero a Milano. Kappa, che bello però, perché li ha più sentiti? Ma con la domanda, ma questa di che ti dice, guacci, qua. lui si è dato un buon pane di saglietti, tu non ne hai un'idea. Cazzo, ne ho mandato uno a fanculo, stamattina c'era uno in banda laterale qua sul 10, che mi arrivava a fondo scala. Cosa vuol dire? Cazzo, ho detto vattene su un'altra frequenza, gli ho detto per favore che questa frequenza è occupata, in inglese gliel'ho detto. Mi ha sentito e se n'è andato, un tedesco io. Si sa cartellare il buon ferro in muro. Ah, quella è roba di kilowatt, perché uno arrivare cazzo così, no, cazzo, in manda laterale, ho girato in manda laterale e mi arrivava a fondo scala questo qui, una volta, pauroso era. Ma tu, intendi? Ehi, la fatica dritto, attento burrone. Sì, già, quando ti ho detto cosa, chi l'ha detto burrundone? Ma andevi lo dico. In l'ingazzoio ha giudito cosa era io. Sì. E secondo te cosa so? Sono di burrundone, so. No, quello l'ho mandato via stamattina perché guarda, ho detto vatti nessun'altra frequenza perché questa frequenza è occupata, per favore, gli ho detto. Ha sentito e se n'è andato. Ma cazzo, dice la roba di chi lo batterà della Telli, per forza. Non è possibile che arrivava così. No, guarda che pure io in Sicilia arrivavo a fondo scala. Cioè, arrivava fortissimo, arrivavo. Un bel forte. Poi italiani non ne ho più sentito, tutti stranieri erano. Impossibile. Dall'Alta Italia non ne ho più sentito, manco uno. C'è propagazione, ma è solo per diritto e furie. L'ho sentito quando abitavo nell'altra casa, che arrivavo un bel forte, mi divertivo ad attaccare il